Bene, allora, buon pomeriggio da Marco Tesei. Questa è l'orario estivo di L Radio Libri, quindi noi ci spostiamo d'orario a seconda del sole. Oggi effettivamente posso dire, ma non voglio dirlo perché poi porta male, ma insomma mi sembra che sia la prima giornata estiva calda e per quanto mi riguarda è viva. L Radio Libri in onda 88, in 88.100 e poi in streaming ovunque voi siate, dall'Asia all'Afghanistan, al Madagascar, che mi piace tanto dire questa cosa. E per parlare di che cosa oggi? Oggi parliamo, sì, prima puntata estiva per me, quindi un po', sono un po' rimbambito, sì, in effetti sono un po' rimbambito, ma credo che ce la faremo. Intanto la domanda è: il vostro monumento preferito? Il telefono è 06-355-11660 e l'SMS è 335-6637-853. Per rispondere a questa domanda, il vostro monumento preferito, perché parliamo di questo? Perché abbiamo al telefono, in treno, il professor Ugo Tonietti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora, non ci sono per il momento gallerie, professore. Speriamo, stiamo per arrivare a Bologna e lì può cadere di tutto. Sbrighiamoci allora a dire le cose più importanti, che poi ci va via la linea. Allora, lei è già intervenuto una volta alla nostra trasmissione, è professore di scienze delle costruzioni all'Università di Firenze, all'Università di Architettura. Di Firenze. Ho detto Firenze, sì. Di architettura, ma si occupa oltre a questo del nostro, cioè del patrimonio mondiale e culturale, che è soggetto e sottoposto ai rischi del degrado ambientale, ai rischi delle guerre e delle calamità naturali, insomma in tutto il mondo. E di questo ne abbiamo parlato già nella scorsa puntata, dico nella prossima perché io spero sempre che lei poi ritorni, magari venga a trovarci qui negli studi di Roma. Ecco, intanto le voglio chiedere, all'ordine del giorno c'è stato in queste ultime settimane la Siria, perché lei è andato anche a Parigi, all'UNESCO, a parlare di questo, no? Sì, è vero, sono stato proprio la settimana scorsa con una mia collega alla sede centrale dell'UNESCO, dove è stato organizzato un meeting apposta di esperti per riflettere su un problema drammatico. Cioè, il discorso è molto complesso, perché quella della Siria è una situazione molto più drammatica di quanto percepiamo nella vita quotidiana, perché non ne siamo realmente informati. Certo. Quindi è una situazione in cui ci sono, io credo dall'inizio dell'anno ci sono stati più di 2000 morti, di cui la metà donne e bambini, tutto il nord non si va a scuola, non c'è commercio, non c'è nulla. Quindi è terribile, però la Siria c'è anche un altro aspetto che è interessante ed è prezioso ed ha un patrimonio culturale straordinario, per cui l'UNESCO si è posta questo problema: dovesse mai accadere che presto, tra un anno, le cose si sbloccano, ci sono un'enorme quantità di monumenti in pericolo, a rischio, di cui sono documentate i dissesti in questa fase, perché la guerra li colpisce, certo, con le bombe eccetera. Ecco, dovessero riaprirsi i giochi e fosse possibile metterci le mani, prepariamoci per tempo. E quindi questo era il senso di questa riunione, per cui io e la mia collega eravamo degli esperti per quanto riguarda la statica di queste strutture, che è un aspetto decisivo. Per lo più erano archeologi, erano riuniti e tutti abbiamo discusso del fatto che a cosa dobbiamo pensare se domani mattina si aprisse la possibilità di intervenire in Siria, ovviamente noi occupandoci di questa cosa che non è la principale, perché la vita delle persone certamente viene per prima, ma che è un fattore identitario talmente importante non solo per la Siria ma per tutta l'umanità. Se poi ora abbiamo modo di approfondire, è veramente un territorio di un'importanza estrema. Sì. Io direi di farlo subito, professore, approfittando, sì, anche volentieri, che non abbiamo le gallerie. Certo, no, poi è interessante questo discorso, perché insomma è proprio sull'attualità più stringente, insomma stiamo parlando, sì, del paese che in questo momento è sottoposto, sì, a rischi quotidiani. Sì, lei deve sapere allora che ci sono mi sembra 4 o 5 siti che sono patrimonio dell'umanità ufficiale: il centro storico di Damasco, il centro storico di Aleppo, la città di Bosra, San Simeone vicino alla costa, Palmira, la famosissima Palmira, diciamo al confine quasi con l'Iraq. E questo è l'aspetto, come dire, il Crac des Chevaliers, per esempio, che è un castello medievale, un castello costruito la prima volta intorno al 1100 dai crociati, ma fatto proprio naturalmente dal Saladino e dai musulmani che se ne sono impossessati, e che è un oggetto meraviglioso di testimonianza di... Tra l'altro, queste, mi perdonatemi un po', io sono abituato ad aprire parentesi, spero di chiuderle tutte. Va bene, sì. Perché c'è, come dire, la cosa notevole di questo paese è l'ibridazione, cioè ci si incrociano culture diversissime. Certo. E sono culture, diciamo, che si contribuiscono una con l'altra. In questo caso le dico, appunto, la cultura islamica locale ha rubato dei segreti dalle architetture che venivano dall'Europa, ma poi ha ceduto dei segreti. E se lei pensa che la Siria è stata, tra l'altro, ha una tradizione di ospitalità, è un centro nevralgico, perché io sono stato ad Aleppo varie volte in passato, ma lì ci sono 10 tipi di popolazioni, di etnie, di religioni, e la situazione ora è, per queste persone, è terribile. Ma vorrei aprire un ulteriore scenario, oltre a questo, che riguarda dei monumenti come per esempio Palmira, che è una città romana meravigliosa di cui parlavo prima, e che presenta testimonianze che non abbiamo forse nemmeno in Italia in taluni casi e in taluni aspetti, dei teatri, delle biblioteche. Ma c'è un'altra cosa che, sì, secondo me bisogna proprio porre all'attenzione, cioè la Siria nasconde l'inizio della storia della nostra civiltà. C'è, diciamo, un'enorme quantità di scavi archeologici, sono tutti radicati nel territorio siriano. Perché? Perché il territorio siriano intercetta nella parte ad est e a nord il Tigri e l'Eufrate. Cioè noi siamo nel punto dove la civiltà assiro-mesopotamica è nata. E quindi siamo nel punto dove ci sono i primi passi di quella che poi noi chiameremo civiltà, perché subito prima di questo c'è un mondo senza scrittura che noi chiamiamo preistoria, il, certo, mondo del Neolitico, eccetera. Da lì in poi, ma nasce tutto lì, nasce nel mondo sumero, nasce nel mondo assiro-babilonese. E se le devo dire, questa è una cosa che bisogna sostenerla, però, perché cioè, noi dimentichiamo costantemente il peso, l'importanza, il senso profondo che quella civilizzazione ha dato a noi, perché in realtà, dobbiamo dirlo, poi successivamente la storia ci è stata raccontata in un modo un pochino più tendenzioso. Ecco. Nel senso, abbiamo cominciato a pensare che tutto cominciasse, per capirsi, insomma, da quello che ci racconta, diciamo, i racconti biblici, da quello che poi ci racconta il mondo greco-romano, e abbiamo dimenticato che c'è un'origine straordinaria e tra l'altro di una ricchezza culturale spaventosa proprio nel mondo sumero e nel mondo mesopotamico. Se noi quando pensiamo ai nostri eroi, i nostri miti, noi ci fermiamo appunto alle storie della Bibbia, oppure ci fermiamo, se andiamo ancora più indietro, ci fermiamo ad Omero. Lei deve pensare che la prima scrittura nasce nel mondo sumero oltre il 3000 avanti Cristo, la prima città Uruk nasce in quel contesto, le prime, diciamo, esperienze, diciamo, di organizzazione dal punto di vista dello Stato. Ma quello che ci interessa, secondo me, dovremmo rifletterci di più, è tutta la poetica. Lei pensi che la storia di Gilgamesh non viene nominata nelle nostre scuole? Noi dovremmo insegnare ai ragazzini Gilgamesh. Caro professore, troppe cose non vengono menzionate nelle nostre scuole. Sì. Gilgamesh, no, capisco. No, capisco il suo ragionamento. Sono d'accordo perfettamente con lei. Quello che le volevo chiedere, di tutto questo patrimonio, insomma, oggi come oggi, non si può fare un monitoraggio della situazione reale? Sì. In questo momento, diciamo, in questa riunione di Parigi, per esempio, partecipavano molti siriani a questa cosa, con la delicatezza che ce n'erano anche alcuni, una sparuta minoranza che erano nei territori dell'opposizione, non è stato facile metterli a discorso. Però abbiamo, diciamo, una serie di valutazioni. Stavano lontano, diciamo, l'uno dall'altro. Sì, no, era abbastanza, ma si coglieva, è una situazione certamente c'è terribile. Una situazione ovviamente terribile. Mm. Niente, diciamo, in questo momento le situazioni decisamente più a rischio, ora le dico, ci sono di due tipi, ecco, forse quella più terribile di tutte è quella che riguarda gli oggetti mobili, cioè vengono trafugati e poi venduti nel mercato clandestino un'enorme quantità di reperti archeologici. Questo è successo e ne abbiamo un insegnamento dalla situazione agghiacciante che ci si prospettò in Iraq quando fu depredato il museo di Baghdad, ed è una perdita umana incredibile quella che avvenne allora, con le truppe, diciamo, che erano americane, che non si parlano minimamente di quello che stava avvenendo. Ora qui c'è un'analoga, cioè siccome gli scavi sono protetti, non sono più visitati, non ci sono archeologi, non c'è uno, sono oggetto continuo di depredazione, e qui c'è un importante problema di come impedire il trafugamento di questi, ma ci sono delle statuarie bellissime, cioè, e questo è un problema. L'altro problema, se vogliamo andare alle cose di cui io mi occupo un po' più, è il problema dei monumenti, e lì ci sono, per così dire, due punti di estrema delicatezza. Uno, che dice questo crack di Chevalier, che è questo castello che si trova grosso modo nella direttrice che esce Damasco con Aleppo, sulla sinistra, un po' più vicino a Damasco in direzione del Mar Mediterraneo, che è un castello bellissimo fatto in pietra, e io ho visto una centina di documentazioni fotografiche che mi hanno fatto da Parigi, e è stato, siccome in varie situazioni, diciamo, è stato la sede del castello, quindi c'ha un senso tutto questo, è stato sede dei ribelli e poi sede di gruppi armati, diciamo, di Assad, e quindi è stato più volte bombardato, e ci sono, diciamo, molte delle volte sono crollate, tutti i paramenti murari sono colpiti, percossi e distrutti proprio dalle bombarde, e ci sono delle situazioni di estremo pericolo, insomma, lì soprattutto intorno ai fossati, eccetera. Quindi questo è un oggetto che è su cui bisognerebbe mettere le mani subito, con puntellamenti, eccetera. Un altro punto, devo dire forse addirittura più grave, anche perché, come dire, è più delicato come perché rappresenta qualcosa di più forte come immagine storico-architettonica, quello che accade nella città di Aleppo. La città di Aleppo ha una cittadella bellissima, anche questa intorno al 1200 nata, che è originale, diciamo, ha anche una forma stranissima. Cioè io mi viene in mente l'altro giorno perché ho visto una cartolina. Luoghi turistici, no? Una volta questi sono luoghi turistici. Ecco, ma vede che noi ci intendiamo. lei pensi che l'Orient Express, che si prendeva a Parigi per andare a Istanbul, eccetera, aveva tra le cioè i manifesti dell'Orient Express presentavano la cittadella di Aleppo come la meta, diciamo, esotica, ma perché, le assicuro, è un oggetto incredibile. Sì, sì. E anche questa è completamente bombardata, perché essendo una cittadella, i ribelli Aleppo è proprio è una città che si contendono ribelli e truppe regolari, quindi la città di Aleppo bombardata, ma lì poi c'è tutta la dimensione del souk. Il souk di Aleppo era una metropoli, non c'è niente, non c'è più una bottega, non c'è più nulla, e all'interno del souk, uno dice il souk è un mercato, all'interno del souk ci sono i khan, i cosiddetti caravanserragli, e ci sono, e c'è tuttora, una bellissima moschea omayyade, moschea del XII secolo, che aveva un campanile, scusi per la stupidaggine, che aveva un minareto del 1000, poco dopo il 1000, quindi era prima il minareto e poi la moschea che vediamo oggi, che non c'è più, cioè è distrutto, un oggetto meraviglioso dell'XI secolo che è stato completamente, cioè non c'è bombardato. Rimasto più niente, sappiamo solo che stava in quel punto e basta. Esattamente, e anche la porta di accesso a questa meravigliosa moschea, una moschea omayyade, vuol dire, stiamo parlando di una cosa, delle prime esperienze, diciamo, architettoniche di rilievo grosso del mondo islamico, insomma, e non c'è, diciamo, lei sa che, diciamo, questo è quel tipo di moschea in cui in pratica sono dei grandi porticati che fanno una sorta di rettangolo, e nel centro ci sono i posti dove ci si lava, con delle fontane decorate, bellissime. Queste fontane sono quasi sostanzialmente distrutte. Quindi ecco, il discorso della Siria è naturalmente un discorso molto delicato, ripeto, prescindendo dalle emergenze più grosse e più gravi che sono umanitarie, perché ci sono 2,5 milioni di sfollati in Siria. E la Siria era un paese dove, pensi, solo ad Aleppo, io ci sono stato l'ultima volta nel 2009, c'erano un campo profughi dei palestinesi di più di 1 milione di persone, perché c'è un, come dire, una tradizione di ospitalità enorme in questo paese, e ora invece sono loro che devono scappare, fuggire. Quindi è anche una situazione, diciamo chiaramente, una situazione umanitaria, come dice lei, ma secondo molto me non è rappresentata sufficientemente, ecco, perché però è vero che ce ne abbiamo tante nel mondo, ma questa è sicuramente una delle più delicate, proprio perché coinvolge centinaia di migliaia di persone. Ecco, noi abbiamo fatto, naturalmente, giustamente ci siamo soffermati sull'attualità, intanto Maya ci dice, ci scrive che i suoi monumenti preferiti sono l'Arco di Costantino, immagino qui a Roma, e la Grande Muraglia Cinese, due cose molto, molto vicine. Sì, no, è bella l'immagine, no, ci mancherebbe. Sì. E Paolo dice la Reggia di Caserta, e mi fa piacere che Paolo nomini la Reggia di Caserta, perché in questo periodo non è in condizioni, insomma, molto appetibili, c'è un certo degrado che avanza e che bisognerebbe fermare. Certo. Professor Tonietti, allora sì, adesso ci racconti, intanto, visto che le gallerie ancora sono lontane, un viaggio che lei ha fatto al di là della Siria e che ancora non ci ha raccontato. Oh, lo sa che non mi ricordo, perché avevamo preso come pretesto quel libro di cui lei... il libro che L'arte di abitare la terra. L'arte di abitare la terra, sì. Sì, l'Asino d'Oro. Editore, sì, pubblicato dall'Asino d'Oro, sì. Sì, e io non mi ricordo, perché lì ci sono addirittura delle cose stranissime anche nella stessa Siria, che sono i villaggi a cupola. Se vuole rimaniamo in Siria e parliamo di questo, sì. Perché no, già che ci siamo, cioè, perché per dare l'idea di facciamo cioè, la storia una, umana. Diciamo una monografia, e va benissimo. Una monografia, facciamo un discorso grafico. No, volendo poi possiamo anche arrivare alla muraglia cinese, così facciamo contenta la sua ascoltatrice. E no, ma in Siria c'è questo di curioso. C'è, diciamo, la storia umana che ci fa appunto lamentare continuamente, e giustamente, perché siamo insopportabili, non riusciamo a farne una giusta, però ha anche una ricchezza e una varietà, e una cosa che ogni tanto fermarci a pensarci ci dà quel minimo di ottimismo che è essenziale, perché in Siria, diciamo, nella regione che va da Aleppo, ci sono dei grandi... Era andata fin troppo bene con il cellulare del professor Tonietti. Professore? Sì, mi senti? Io mi sento benissimo. Sì, e c'è stata una defiance, sì, da parte della sua voce, ma non per colpa della sua voce. Continui pure. Niente, siccome siamo proprio sottoterra, perché siamo arrivati a Bologna e stiamo ripartendo per Firenze. E tutto, continui tranquillamente. Va bene. Quindi, diciamo, quando ci si avvia verso l'Iraq e si in direzione dell'Eufrate, si fanno queste grandi pianure molto aride, addirittura alcune le si chiamano Sebka, perché sono, come dire, rimangono in affioramento degli elementi di sale di lago salato precedente, che sono, come dire, il territorio di pascolo di vecchie popolazioni nomadi. Queste popolazioni nomadi un tempo, diciamo, portavano gli armenti in una sorta di transumanza e stavano nelle tende. Poi a un certo punto, stare in un deserto siriano non è facile in tenda, si sono costruite delle cose che, io le assicuro, sono dei gioielli. Cioè dei villaggi interi fatti di terra cruda, tutti con delle cupole meravigliose che sono fatti come i cappelli delle streghe, per capirsi, alte come dei coni, e sono degli oggetti che quando lei li vede tutti insieme arrivando da lontano in una vallata, lei si immagini una cosa che in un libro dei bambini, dei puffi, uno si immagina una cosa del genere. Tutta una cosa di questi, con questi cappelli di streghe di color terra, color deserto, e che poi se uno si avvicina si accorge che c'è un bambino, che c'è una donna, che c'è una capra, che c'è... E quando si entra in queste case si sta meravigliosamente, perché sono fatte appunto in terra cruda, e questa terra cruda ha degli spessori molto grossi, le volte tra l'altro fatte con una tecnica, ma ora non voglio annoiare né lei né gli ascoltatori, no, ma figurati, con una tecnica originalissima, perché insomma ci sono soprattutto le popolazioni, come dire, meno importanti, quelle meno nobili, che si sono inventate delle cose dovendo obbedire a delle regole di semplicità, non possono usare il legno perché non possono, diciamo, ce n'è pochissimo, e quindi sono costretti a fare le cupole senza sostegno, e per farle senza sostegno si inventano, le assicuro, queste modalità di progressione, di aggetto dei conci l'uno sull'altro, che quando però è completata la cosa, diciamo, hanno una loro sostanziale stabilità. E quindi sono anche per la storia del costruire degli esempi importanti. Cioè, c'è una ricchezza in questi ambienti, che tra l'altro vivono in condizioni abbastanza estreme dal punto di vista del rapporto, perché l'inverno c'è neve ed estate ci sono 50 gradi. Certo. E sono insegnamenti che sono, ecco, ripetevo ora senza tornare a Gilgamesh, ma insomma ci sono degli insegnamenti che andrebbero colti, perché non possiamo prescindere dalla nostra storia e dalle soluzioni che in varie situazioni abbiamo dato, alcune popolazioni hanno dato. Comunque faremo una battaglia per Gilgamesh, va bene? Sì, assolutamente, perché la mitologia non comincia con gli omicidi. Questi due amici non si ammazzano l'uno con l'altro. Questa è una storia che va raccontata. Tutta la nostra mitologia è basata sulle persone che si eliminano per poter poi farne a Roma. Lui ha dovuto ammazzare il fratello. E lasciamo perdere, è tutta la storia biblica. Insomma, Invece non è sempre così. Comincia in un altro modo. Le direi di leggersi degli articoli bellissimi, Fabio Della Pergola sul il sogno della farfalla, delle cose che evocano una riscoperta di questi mondi e di queste, diciamo, un riposizionamento, ecco, della nostra cultura, che ha bisogno di rialimentarsi alle origini proprio. Ecco, prima di concludere, comunque prima dell'arrivo della galleria, qualcosa sulla muraglia cinese ce la vuole dire? Ah sì, ecco, no, ma mi è venuto in mente ora, perché qui la sua ascoltatrice, esatto. Nel senso che una delle esperienze che abbiamo fatto recentemente, nel senso in realtà sono già passati 3 anni, è stato ma pensi lei, ci hanno chiamato tutto sommato i cinesi, perché la grande muraglia, lei lo sa, è lunga, va da Pechino e si snoda per circa 8.000 chilometri, addirittura qualcosa di più, in direzione ovest, costeggiando, diciamo, quasi a una stessa latitudine, costeggiando, diciamo, il deserto. Quando finisce la grande muraglia, finisce con una fortezza bellissima che si chiama la fortezza di Zhangjiaguan, che è uno dei beni dell'umanità, protetto dall'UNESCO, eccetera, che è stata, come dire, non ha subito grandi rimaneggiamenti e che è fatta totalmente in terra. È un oggetto che, diciamo, è nato nel 1400 e rotti, durante la dinastia Ming, ed è rimasto sostanzialmente inalterato. Le assicuro che è un capolavoro, e che la terra cruda, usata sapientemente, come la sapevano usare, perché loro, diciamo, sono stati i primi che hanno in qualche modo codificato l'utilizzo di questo materiale, nella situazione di Zhangjiaguan è un assoluto capolavoro. E era chiaramente una fortezza, perché ci troviamo esattamente di fronte al deserto di Gobi, cioè di fronte alla Mongolia, che era la cosa da cui la grande muraglia doveva proteggere, cioè l'invasione possibile dei mongoli, che quando avevano tempo venivano a saccheggiare nel territorio cinese. E questa fortezza aveva dei problemi. La cosa curiosa è che questi problemi non erano così gravi come i cinesi stavano immaginando. A noi siamo stati coinvolti, diciamo, tramite, diciamo, degli organismi anche italiani, ma è la World Bank, eccetera, che voleva sapere, ma questi erano in mente di fare sulla fortezza, è sensato o no? E in realtà, con un pochino di attenzione, di studio, si scopre che ciò che veniva interpretato come un momento di possibile pericolo, di dissesto grave, realmente non lo era. Bastava comprendere a fondo la tecnica costruttiva per rendersi conto, e questo accade spessissimo quando si devono mettere le mani nei monumenti, cioè le cose da fare sono, in realtà, se si capiscono a fondo le cose, veramente poche. E anche in questo caso, diciamo, i protocolli da adottare non erano così micidiali. E quindi è stato un piacere, è stato ovviamente anche un piacere incontrare per me la prima volta i cinesi. Io non avevo la più grande idea di che personaggi fossero. E comunque in un territorio abbastanza eccentrico, perché stiamo parlando proprio di una parte, appunto, molto terra. all'estremo est dello sviluppo del territorio cinese. E niente, io confesso insomma che la Grande Muraglia funziona. E anche perché, ecco, professore, la Grande Muraglia si sta allontanando. Ci separa perché sento che la voce sua ha qualche problema, sì. Si vede che qualche galleria si sta avvicinando. Comunque abbiamo completato, abbiamo detto veramente tutto quello che volevamo dire e anche, certo, di più, grazie alla sua, certo, capacità di narrazione che lei ha. E questo sa che cosa comporta, no? Che noi la richiamiamo. Va bene, okay. Sarà un piacere. Allora, un piacere. Buon arrivo nella sua Firenze e a presto. Grazie di tutto. A presto e grazie a tutti voi. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.